Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema molto importante e attuale nell'economia italiana, cioè la presenza della grande industria, una presenza che si è fortemente indebolita negli ultimi anni. Di queste grandi industrie italiane un nome in particolare spiccava ed era quello dell'Olivetti, e proprio questa società in un periodo particolare è considerata nel libro che adesso vi propongo. L'autore è un giornalista del Sole 24 Ore, Paolo Bricco, e si intitola L'Olivetti dell'ingegnere. È pubblicato dal Mulino, 426 pagine, 20 euro. L'Olivetti era stata fondata, come ricorderete, ai primi del secolo, ai primi del Novecento. Era stata guidata fino al 1960 dal figlio del fondatore, Adriano Olivetti, una figura decisamente atipica nel panorama del capitalismo italiano per la sua particolare sensibilità al tema del rapporto tra la fabbrica e la comunità, che lo portò a battere strade insolite per un imprenditore, come l'attenzione alla cultura e alla politica. Fondò anche un partito a un certo punto che ebbe scarsa fortuna. Alla sua improvvisa scomparsa, l'azienda rimase praticamente senza leadership e senza mezzi, e venne mantenuta in vita da un pool di banche che sostanzialmente si disinteressò per molti anni dell'andamento finanziario ed industriale della società. Nel 78 arriva appunto Carlo De Benedetti, fresco del suo breve passaggio in Fiat come amministratore delegato, dove la sua cultura non si era conciliata con quella della famiglia Agnelli, che si sarebbe poi affidata a Cesare Romiti. E dal 78 comincia quello che fu definito un turnaround, una svolta epocale dell'Olivetti, soprattutto per la capacità di ricollocare in pochi anni l'azienda nel settore che stava per esplodere, cioè quello dell'elettronica e dell'informatica. Ma l'avventura sarebbe poi finita male anche dopo l'ingresso nel settore della telefonia con Omnitel, come ci dice adesso l'autore. Buonasera Paolo Bricco. Buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori. Paolo Bricco, nel tuo libro tu cominci con un'analisi dell'Olivetti come era prima dell'arrivo di Carlo De Benedetti, e dai anche un giudizio abbastanza severo, in questo un po' controcorrente, su quello che era stata la gestione della famiglia Olivetti, in particolare di Adriano. Sì, la gestione di Adriano Olivetti è una gestione mitica, nel senso che è sempre stata avvolta dall'epos, è stata una grande esperienza culturale, una grande esperienza industriale, ma con pecche tipiche del capitalismo italiano del Novecento, quindi pochi mezzi finanziari, un pessimo rapporto con la finanza d'impresa, una sottopatrimonializzazione incipiente. Quando nel 1960 muore Adriano Olivetti, i nodi vengono al pettine. E nei 18 anni successivi, precedenti all'arrivo di Carlo De Benedetti, che avviene appunto nel 1978, l'Olivetti, come molte altre imprese italiane, viene congelata nel sistema Mediobanca, IRI, che ricordiamo è stato il più grande elemento di stabilizzazione dell'economia italiana nel secolo scorso. Ossia interviene Enrico Cuccia, questo accade nel 1964, e per il quindicennio successivo garantisce all'azienda una sostanziale stabilità, un congelamento che in qualche maniera gli consente di stare dentro al mercato con i prodotti, con le attività commerciali, con anche la grande eredità culturale che in tutti gli anni 60 e 70 caratterizza l'Olivetti, ma senza avere il problema dell'ultima riga del conto economico. Ecco, nel 1978 tutto questo arriva a un punto di insostenibilità e appunto viene offerto da parte del professor Bruno Visentini, che appunto di Enrico Cuccia era un amico, un sodale, la proposta di arrivare a Ivrea, perché dopo tanti anni l'Olivetti è un'impresa che ha bisogno di un imprenditore. Ecco, nonostante questa crisi gestionale, questa prolungata crisi gestionale, l'Olivetti aveva mantenuta quella che lo stesso Carlo De Benedetti definisce, in un passo che tu citi, una forma di alterigia olivettiana. Come mai c'era questa alterigia olivettiana? Beh, è un'alterigia che nasce da una forma di minoritarismo aristocratico che ha sempre caratterizzato la Olivetti. Basti pensare all'eccezionalismo della storia olivettiana. Nella prima parte della sua storia, dalla fondazione fino alla Seconda Guerra Mondiale, e contraddistinta dalla leadership di Camillo Olivetti, che era un personaggio quasi biblico, socialista, era come dire una mosca bianca, ecco, nel capitalismo italiano, peraltro grande amico di molti antifascisti, antifascista anche egli, e quindi come dire un personaggio insieme marginale e di grande livello. Dall'altra parte Adriano Olivetti è davvero, rappresenta una sorta di altro da sé rispetto al capitalismo italiano, il suo sincretismo, il suo fascino, la sua forza culturale, la sua utopia fallimentare politica. Ecco, in qualche maniera tutti questi elementi hanno contribuito alla Olivetti a definire un codice genetico, un codice quasi antropologico di senso di diversità. In qualche maniera la cultura olivettiana ha sempre avuto lo stigma del perdente di grande fascino, ecco, del vincitore morale ma del perdente nella storia. E quindi è proprio quell'alter ego olivettiana che viene riscontrata non soltanto da Carlo De Benedetti ma anche da tanti che nel Novecento hanno avvicinato una creatura industriale, culturale, estetica e tecnologica così strana come la congerie olivettiana. Ecco, veniamo a Carlo De Benedetti. Di lui tu metti in luce un aspetto particolare nel profilo imprenditoriale, e cioè il fatto che fosse un uomo al contempo di finanza e di impresa, che avesse una sensibilità anche per le tradizioni familiari al tema appunto della finanza, sensibilità che manifesta appena arriva a Ivrea. Quanto ha contato questa caratteristica di De Benedetti nella sua esperienza olivettiana? Beh, ha contato tantissimo perché come dire, ha permesso soprattutto nella prima fase di mettere prima in sicurezza e poi di ristrutturare, di rilanciare un'impresa che soprattutto nei conti e nella, come dire, nella gestione industriale, quella che viene definita oggi pianificazione e controllo, più connesso al tema del denaro in fabbrica, del denaro in ufficio, era veramente deficitaria. L'Olivetti è nel 1978 è un'azienda sostanzialmente semifallita. De Benedetti fa una ristrutturazione profonda nel rapporto con le banche, rimodula l'intero corpus industriale e gestionale e soprattutto nei primi 4-5 anni riesce a unire questo aspetto della finanza d'impresa con l'aspetto altrettanto importante di rilancio industriale e commerciale, valorizzando le competenze tecnico-tecnologiche che in azienda esistevano, come lui stesso ammette, ma che non riuscivano a essere adeguatamente valorizzate. Ricordiamo che appunto la macchina per scrivere elettronica già esisteva, il progetto, e Carlo De Benedetti ha il grande merito di avere definito un prezzo di vendita molto superiore a quello che la vecchia cultura olivettiana della programmazione, no? Il professor Momigliano, un altro personaggio mitico della storia dell'Olivetti, aveva suggerito. Quindi l'impresa con l'imprenditore torna a nuova vita tra il 1978 e il 1982 e poi nel 1984 con la definitiva metamorfosi verso l'informatica distribuita, in particolare ricordiamo nel 1984 l'M24 è il personal computer più venduto al mondo, se ne vendono più di 1 milione di esemplari, ultima compie una metamorfosi dalla meccanica elettromeccanica che era stata la specializzazione produttiva dell'Olivetti ancora negli anni 70. L'altra scelta strategica che però fallì sostanzialmente che fa De Benedetti è l'apertura alle alleanze internazionali. Sì, è stato il grande passaggio mancato, perché mentre l'alleanza con i francesi nella prima parte della storia dell'Olivetti cade perché c'è la statalizzazione dell'economia francese imposta da François Mitterrand, il vero passaggio a vuoto è probabilmente AT&T, l'alleanza nel 1984 con il gigante delle telecomunicazioni. C'era appena stato il break up imposto dal regolatore americano e AT&T si trova a dovere gestire una diversificazione che sceglie che sia geografica e quindi l'Europa e sia di business, quindi dalla telefonia all'informatica. Allora molti osservatori pensavano che vi sarebbe stata una convergenza tra i due business E questo investimento nel 1984 AT&T diventa con Carlo De Benedetti il primo azionista di Olivetti e si rivela un grande affare di tipo societario di equity per la Olivetti, ma purtroppo non si verificano le sinergie con i Bell Laboratories dove avevano lavorato 8 Nobel americani addirittura, che tutti auspicavano. L'alleanza dal punto di vista industriale, laddove si pensava potesse dare davvero i migliori frutti, resta sterile e quindi purtroppo, dico purtroppo davvero per l'industria italiana ed europea, quel matrimonio alla fine si rivela infruttuoso, fino all'uscita nel 1988. Quanto contò questo passaggio sulla vicenda complessiva dell'Olivetti De Benedettiana e possiamo dirlo sul fallimento anche soprattutto di sulla, nel 1988 contò moltissimo, perché nel 1988 AT&T, il management di AT&T desidera, dopo che appunto dal punto di vista industriale le cose non sono andate bene, desidera acquistare Olivetti perché pensa che prendendone il controllo in qualche maniera si possa arrivare ad avere risultati migliori, ecco. E Carlo De Benedetti decide di vendere, ma in uno dei passaggi che in qualche maniera mostrano quanto l'elemento umano e psicologico conti nelle vicende economiche, conti nelle vicende industriali, conti nelle vicende finanziarie, nel viaggio definitivo con i suoi collaboratori da Ivrea a New York, all'arrivo a New York, in un weekend a mercati chiusi, come si dice oggi, decide di tornare sui suoi passi e di non vendere. Decide di non vendere rinunciando a un guadagno netto che io ho quantificato in 1.100 miliardi di lire del 1988, una cifra che lo avrebbe probabilmente reso uno degli uomini più ricchi d'Europa, se non del mondo, ecco. E decide di non vendere e decide di provare a proseguire sulla strada dell'indipendenza e quindi propone ad AT&T di acquisire le loro quote, di fare l'operazione opposta rispetto a quella per cui erano arrivato a New York, e inizia quindi quegli ultimi 8 anni, lui resta in Olivetti a Ivrea fino al 1996, che sono segnati da un lato dalla crisi dell'informatica olivettiana, che si iscrive nella più generale crisi dell'informatica europea. Ricordiamo che Olivetti non c'è più, come non c'è più ICL, non c'è più Nixdorf, non c'è più Siemens, non c'è più Bull, non ci sono più tutte le altre concorrenti europee che derivavano dal fordismo novecentesco sostanzialmente. E contestualmente, di nuovo lì, con quella caratteristica appunto da uomo anche di finanza e d'impresa, riesce comunque a fare quella diversificazione nella telefonia che porterà contestualmente alla situazione paradossale di una crisi drammatica dell'informatica distribuita e allo stesso tempo di un fiorire quasi violento, tanto è ricco, della telefonia di Omnitel. Ricordiamo che la condizione stranissima in cui ci si trova nel 1996, quando De Benedetti lascia la guida operativa dell'Olivetti, è che appunto l'Olivetti Informatica, come le altre imprese europee, ha perso decine di miliardi, ha visto la riduzione degli occupati, ma allo stesso tempo Omnitel e anche la diversificazione della telefonia fissa o infostrada vengono valutate dagli azionisti che si scambiano le quote e dagli analisti che le giudicano a fermo, cifre comprese fra i 35 e i 45 mila miliardi di lire di allora. Quindi, come dire, una condizione davvero paradossale, in qualche maniera sintomatica, se vogliamo, anche di una chiusura, no? Di una storia di lungo periodo come quella olivettiana, che ha sempre avuto in sé una forza di distruzione creatrice in qualche maniera davvero interpretabile con i canoni, per esempio, di un Schumpeter. Grazie a Paolo Bricco, autore dell'Olivetti dell'Ingegnere. Buona serata. Grazie mille a te e grazie a tutti i radioascoltatori per l'interesse e la pazienza. Buona serata a tutti. Una testimonianza interessante sulle origini dell'Olivetti è un testo del fondatore di Camillo Olivetti che spiega le origini dell'azienda omonima. E questa testimonianza è contenuta nel libro La prima impresa industriale di Camillo Olivetti e il paradigma olivettiano, curato da Carlo Lacaita e Marco Vitale. È pubblicato da Inaz, 146 pagine, 10 euro. Nella postfazione, appunto, Marco Vitale nota come questo scritto testimoni i valori fondanti, quelli che avrebbero poi caratterizzato la filosofia dell'Olivetti, e cioè li descrive così: la visione del futuro, l'intelligenza che innova, la ricerca e libertà creativa, la coscienza sociale, il rapporto tra forma e tecnologia e l'apertura sul mondo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Ci sentiamo tutti parigini in questi giorni dopo lo sconvolgente attentato a Charlie Hebdo. Un attentato che, come ben sapete, è avvenuto in contemporanea con l'uscita, che avveniva proprio il 7 di gennaio, nelle librerie del libro del romanziere francese Michel Houellebecq, che ha suscitato tante polemiche prima ancora che venisse letto. Il libro si chiama Soumission e da quello che ho letto sui giornali, perché vi confesso di non averlo ancora letto, il libro anticipa una Francia nella quale il potere politico è esercitato proprio da un partito musulmano. Il libro si intitola appunto Soumission, è pubblicato in Francia da Flammarion, 17,50 euro, e con lo stesso prezzo sarà acquistabili in Italia dal 15 di gennaio. Lo pubblica infatti Bompiani col titolo Sottomissione, 256 pagine. Esprimiamo la solidarietà alle vittime dell'attentato, al giornale Charlie Hebdo, a Parigi, alla Francia, e lo possiamo fare magari leggendo e spedendo un libro cartolina dedicato al simbolo forse più famoso di Parigi, la Torre Eiffel. Il libro si intitola appunto Torre Eiffel, due o tre cose che so di lei, è curato da Eusebio Trabucchi ed è contenuto in una busta che potete appunto spedire come se fosse una cartolina. È pubblicato dall'Orma, 104 pagine, 8 euro. E dentro troviamo un libretto che è proprio una guida alfabetica al simbolo di Parigi con alcune testimonianze letterarie finali. Con la stessa formula ricordo che potete trovare due altri titoli dedicati, questi invece a due grandi del Novecento. La prima è Virginia Woolf, Tutto ciò che vi devo, Lettere alle amiche, curato da Eusebio Trabucchi, e secondo a Fernando Pessoa, Perché sognare di sogni non miei, anche questa è una raccolta di lettere del grande scrittore portoghese tradotte da Eva Silvia Bilotti. Questi due costano ciascuno 5 euro. Paris si intitola il libro di Edward Rutherford, che è uno scrittore inglese, pubblicato da Mondadori, 910 pagine, 23 euro, tradotto da Nicoletta Lamberti. Questo è un romanzo nel quale Parigi fa da protagonista in mezzo alle storie di quattro famiglie a partire dalla Belle Époque. Un romanzo che ci restituisce quella Parigi brillante, colta, tollerante, illuminista, che è stata proprio sfregiata dai terroristi che inneggiavano ad Allah. E a un certo punto incontreremo in questo romanzo anche l'ingegner Eiffel. Ma questi alti e bassi nella storia di Parigi fanno parte della sua storia. Il libro infatti si apre con questa descrizione: Parigi, città dell'amore, città dei sogni, città dello splendore, città di santi e di dotti, città della gioia, sentina di iniquità. In 2000 anni Parigi aveva visto tutto. Io sono pazzo, e voglio essere chi voglio, uscite fuori da casa mia. Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione. E ricordiamo Pino Daniele con un libro che è uscito proprio negli stessi giorni in cui il grande artista scompariva improvvisamente. Il libro si intitola proprio Io so pazzo, pop e dialetto nella canzone d'autore italiana, da Iannacci a Pino Daniele. Gli autori sono Marco Aime, che è un antropologo culturale, ed Emiliano Visconti, esperto di musica popolare, pubblicato da EDT, 162 pagine, 12 euro. Questo libro esamina il fenomeno della pop music che dagli inizi degli anni 60 imbocca una nuova strada, grazie a Georges Brassens e a Bob Dylan, ossia la qualità dei testi che rende le loro opere non più delle canzoni di intrattenimento, ma delle vere e proprie espressioni culturali. una cultura che in Italia irrompe già nel 1958 con Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, che segnò una rottura definitiva con la tradizione melodica italiana. E in questo libro vengono esaminate le varie esperienze sulle quali influisce molto anche la ricchezza dei dialetti italiani, che pure venivano messi in crisi proprio in quegli anni, alla fine degli anni 60, dall'alfabetizzazione che fortunatamente cresceva e dalla diffusione della televisione. Ma i dialetti rimangono un'espressione importante nella canzone italiana. Il primo che si dedica con particolare passione a questo strumento comunicativo è De André, che nel 1978 usa il napoletano per tradurre Dylan, che stava cantando in spagnolo, e poi userà il sardo finché nell'84 pubblicherà il suo album in genovese Creusa de Mar. In questo percorso naturalmente un ruolo importante spetta proprio a Pino Daniele, considerato uno dei protagonisti della canzone italiana dei due autori, che compie un'operazione che viene così sintetizzata da Aime e Visconti. Si può dire, come fa Gianni Borgna, che Pino Daniele ha creato un parallelismo tra la condizione dei neri d'America e quella degli emarginati e dei diversi di tutto il mondo, compresi quelli del nostro meridione, e che lo ha fatto tanto nei testi quanto nelle musiche. I suoi testi recuperano il dialetto napoletano, dando vita a una sorta di glocal ante litteram, le cui potenzialità ritmiche, grazie anche alle parole tronche, sono enormi e portano la musica di Pino Daniele in un contesto lontanissimo da quello della canzone tradizionale. Riescono a distaccarlo dalla stereotipata immagine tutta melodia e sentimento. E restiamo nel campo della musica pop, con un gruppo che ne è protagonista da molti anni e che avrete certo riconosciuto, cioè i Santana. Vi propongo infatti la biografia di Carlos Santana, scritta da lui stesso con Ashley Kahn e Hal Miller, il primo scrittore e direttore di produzione musicale, il secondo musicista jazz e scrittore. Il libro si intitola Suono Universale, La mia vita, è pubblicato da Mondadori, 474 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Carlo Prosperi, Andrea Silvestri e Licia Vig. Il libro è la storia di Carlos, messicano di origine, indirizzato alla musica dal padre, che arriva a San Francisco, dove per campare farà i primi tempi il lavapiatti. Da lì comincia però una carriera prodigiosa, nel senso della consapevolezza che egli qua ci spiega di essere, come dice, un punto di collegamento tra moltissime persone e un tramite col suono universale, quello che appunto dà il titolo al libro, una musica che secondo Santana non è musica di sottofondo, musica da sala d'attesa, è musica che permette di ascendere, di elevarsi. Questa musica costringe all'improvviso, aggiunge, la gente ad andare contro ciò che riteneva esteticamente definitivo, e quello che fino a poco prima gli andava alla perfezione risulta tutto d'un tratto scomodo e fastidioso, come un paio di scarpe che, divenute troppo strette, non riesce più a mettere. Di questo suono universale, di questo ruolo di tramite, Santana accetta serenamente tutti i vantaggi e scrive infatti: accetto di essere un tramite, accetto che la grazia abbia scelto di operare attraverso me come preferisce, e accetto anche i doni, i premi, gli onori e le royalties che ne conseguono. E sentiamo come l'autore ricorda quel concerto che avrebbe lanciato lui e il gruppo al quale diede il nome definitivamente, quello che si tenne a Woodstock il 16 agosto del 1969. A Woodstock suonammo solo 45 minuti, ma il concerto parve durare il doppio. Ogni nota che tiravo fuori mi sembrava una cellula ematica che si muoveva in una vena e pulsava in tutto il mio corpo. Ebbi l'impressione che ogni cosa fosse rallentata. Sentivo la musica che nasceva dentro di me e usciva dalle dita. Potevo vedere il plettro che faceva vibrare una corda, sentire la vibrazione che arrivava al pick-up, attraversava i fili all'interno della chitarra, scivolava nel jack che la collegava all'amplificatore, usciva dall'altoparlante ed entrava nel microfono, percorrendo i cavi fino alle enormi casse di fianco al palco, andando in mezzo alla folla e salendo sulla collina finché non rimbalzava per poi rilanciare indietro l'eco che ritornava sul palco. Più tardi ripensai ai brani che avevamo suonato a Woodstock e mi resi conto di aver completamente dimenticato la prima metà della scaletta. Ricordo di aver sentito la folla che ci acclamava e applaudiva, e poi di essermi allontanato dal palco e di essermi voltato verso Greg, che mi seguiva. Sul volto avevo un'espressione di trionfo, come a dire: «Sì, ce l'abbiamo fatta». Poi Bill Graham incrociò il suo sguardo e gli fece segno di girarsi, quasi stesse dicendo: «Non così in fretta, guarda la folla, goditi questo momento». Greg si voltò e il suo viso parve quello di un bambino piccolo, semplicemente sbalordito. Mi girai e feci la stessa cosa. Credo che Bill fosse orgoglioso di noi più di quanto non lo fossimo noi stessi, perché eravamo tutti un po' sotto shock. E a questo punto... Il confettino. La storia di come nasce una band tra ragazzi e sul significato che questa esperienza può avere sulla vita dei protagonisti troviamo nel romanzo di Benedetta Bonfiglioli, My Basic Guitar, pubblicato da San Paolo, 196 pagine, 14 euro, dove leggiamo la storia dei Black Hole, che diventa una prova di iniziazione per Noah, che troverà nella musica il modo per avvicinarsi alla maturità. Abbiamo cambiato genere per introdurre un grande personaggio del Novecento che fu anche un grande esecutore di Bach all'organo, lo abbiamo appena sentito, Albert Schweitzer, di cui martedì prossimo ricorre il 140esimo della nascita e quest'anno poi ricorderemo a settembre il 50esimo della morte. Schweitzer fu medico, filosofo, biblista, teologo e soprattutto premio Nobel per la pace nel 1952. Di Schweitzer esce Filosofia della civiltà, è pubblicato da Fazzi, 380 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Alberto Guglielmi Manzoni. Questa è un'opera bozzata ai primi del Novecento, poi completata nella foresta del continente africano dove Schweitzer si era trasferito per esercitare la professione di medico. Esattamente si trovava a Lambaranè, dove curava in particolare i lebbrosi. E in queste pagine Schweitzer lamenta la decadenza della civiltà, prende atto del fallimento della filosofia, in particolare dell'illuminismo e del razionalismo, e considera il processo di delegittimazione del potere. E allora si chiede come ricostruire la civiltà e soprattutto come far recuperare alla filosofia un ruolo di guida e di illuminazione. Dopo un esame dell'evoluzione o involuzione del pensiero filosofico, Schweitzer invoca uno spirito nuovo che potrà nascere e scrive solo quando una vera e importante concezione del mondo riuscirà ad attrarre a sé gli individui. L'unica visione del mondo davvero autentica, aggiunge, è quella etico-ottimistica. Sta a noi ridarle la vita. E questo significa riconquistare una volontà di vita, così la chiama, che sia volontà di vivere sino in fondo, seguendo l'impulso a realizzarsi nella più alta perfezione possibile. E sentiamo come Schweitzer ci invita a fare. L'etica del rispetto per la vita non ammette che esistano uomini condannati o favoriti perché liberi dalle responsabilità della dedizione, che in quanto uomini devono agli altri uomini. Vuole che tutti siamo, in qualche modo o per qualche cosa, uomini per gli altri uomini. A chi per professione non è consentito di prodigarsi come uomo per altri uomini e che non ha d'altronde nulla da poter donare, suggerisce di sacrificare un po' del proprio tempo libero, anche se ne dispone di pochissimo. Createvi un'attività secondaria, dice loro, anche non importante, di cui magari solo voi siete al corrente. Aprite gli occhi e cercate dove sia un uomo. Un'opera dedicata agli uomini, che necessiti di un po' di tempo, di un po' di amorevolezza, di un po' di partecipazione, di un po' di compagnia, di un po' di lavoro. Forse è un solitario, un deluso dalla vita, un malato, un disabile, la persona alla quale tu puoi rendere un servizio. Forse un vecchio o un bambino. Oppure un'opera buona che ha bisogno di volontari che possano sacrificare una serata libera, offrirsi per dei turni. Sono innumerevoli i possibili investimenti di quel prezioso capitale d'impresa che è l'uomo. È presente ovunque e in tutti i modi.